A quanto pare, negli ultimi mesi del 45esimo anno prima della nascita di Cristo, alcuni coloni romani a Capua, non ancora affetti dal morbo tutto moderno del conservare a tutti i costi, erano intenti alla demolizione di alcuni antichissimi sepolcreti. Gli antenati della Ruspa toccarono anche al monumento ove pare fosse stato sepolto Capi, il fondatore di Capua, o almeno colui che passava per tale, e durante questi scavi si rinvenne una lastra di bronzo sulla quale in caratteri greci stava scritto quanto segue. Quando saranno scoperte le ossa di Capi, un discendente di Iulo verrà assassinato per mano di suoi consanguinei e subito dopo sarà vendicato con grandi stragi e lutti per l'Italia. Parlandone 150 o 160 anni dopo, nella vita dei 12 Cesari, Caio Svetonio Tranquillo interpreta l'episodio come il primo prodigio da mettersi in relazione all'uccisione di Giulio Cesare. Il secondo segno di malaugurio fu costituito dal fatto che una mandria di cavalli, consacrata a Cesare in ricordo del noto passaggio del Rubicone, smise improvvisamente di pascolare e scoppiò a piangere dirottamente. Segno che anche che gli allevamenti di bestiame da queste parti i problemi li hanno sempre avuti. Poi fu la volta della ruspice Spurinna che, sperando in uno stipendio migliore, disse a Cesare che fra capo e collo, non oltre le idi di marzo, ovvero non oltre il 13 del mese, gli sarebbe capitato qualcosa di seccante. Il quarto segno pare tirato via di peso da un film di Hitchcock. Uno scricciolo che guarda caso veniva anche chiamato l'uccellino reale, proprio il giorno prima delle Idi entra nella curia di Pompeo con un ramoscello di alloro nel becco. Non l'avesse mai fatto, tentativo di imitazione di quell'astuta colomba che invece gode del favore popolare fino ai tribolati giorni nostri, portando nel becco ramoscelli d'ulivo. Il povero scricciolo venne assalito all'improvviso da uno stormo di uccellacci e ci lasciò le penne. Come tutto ciò non bastasse, poi sembra che nella notte prima del giorno fatale sia la signora Calpurnia che il marito ebbero bruttissimi sogni. Lei, che non amava né architetti né carpentieri, sognò il crollo del tetto della loro casa, porte che si spalancavano da sole, e il marito assassinatole in grembo. Freud avrebbe avuto parecchie cosucce da dirle, ma è presumibile che per questioni d'età almeno a questa solvibilissima cliente abbia dovuto rinunciare. E il povero marito, invece, sognò di librarsi in aria e di volare oltre le nuvole fino a stringere la mano a Giove, dal che deduciamo almeno due cose: che i megalomani sono sempre stati uguali in ogni tempo ed in ogni paese, e soprattutto che Cesare non aveva digerito. Infatti, racconta Svetonio che l'indomani mattina stava poco bene ed era piuttosto incerto sul fatto di uscire di casa. Più tardi, tuttavia, come noto, decise di fare una capatina in Senato. Domenica scorsa nella televisiva, diciamo, maratona nazi popolare, è ospite di Mara Venier, una signora bulgara. Allora, all'età di 13 anni questa signora bulgara ha subito un brutto incidente, è rimasta in coma alcuni mesi e ne è uscita beneficiata come dalla lotteria di Capodanno. Ha acquisito i poteri della sensitiva e della veggente. Siamo anche ormai prossimi alle idee di marzo, ma a nessuno viene in mente. Fatto sta che a questa bulgara toccata da Dio viene offerta un'amica della Venier medesima, ivi cablata nel pubblico plaudente. Vige nel popolo da bene l'incallita compiacenza nei confronti di oroscopi e magicismi, e la televisione di Stato somministra questi analgesici sociali con una dovizia tale da far insospettire perfino quel dottor Watson che bofonchia in noi con il beneplacito di chi ci comanda a bacchetta. fa parte allora dello spettacolo normale l'applicazione della veggenza bulgara al prossimo futuro della malcapitata di turno, ed è implicito nell'assunto di partenza che questo prossimo futuro, una volta disoccultato, possa essere o così o cos'ha. E invece no, perché la veggente comunica alla signora una futura vedovanza, e ciò, apriti cielo, ingenera scandalo, costernazione, prese di posizione sdegnate, minacce, decisioni opportune, perfino pronte riparazioni al futuro medesimo. La scommessa, non so se mi spiego, è di quelle fin troppo facili. Poi la signora è sposata, lì non c'è nessuna veggenza perché il marito appunto era in sala, tecnicamente ci sono 50 probabilità su 100 che rimanga vedova. Le statistiche sulla mortalità maschile in questa tipologia di contesto socio-economico poi danno anche una mano. L'inascoltato Spurinna in fondo rischiava di più. Tuttavia, ai suoi tempi, sotto una dittatura che non era uno scherzo, l'augure poteva ancora fare quel suo mestiere che in questa democrazia è invece diventato impraticabile. La comunicazione televisiva alle masse garantisce oroscopi positivi, festosità, sorrisi e scollature, esclamazioni di stupore gioioso. Chi sente ciò che gli altri non sentono, chi vede dove gli altri non vedono, chi vanta i sempiterni poteri privilegiati deve dunque andarci cauto. Non perché sia un banale imbroglione, ma perché deve raffinare i propri sensori e cogliere soltanto ciò che torna utile e coerente al paradigma prestabilito. Così i maghi possono partecipare di quella medesima matrice che accomuna già i giornalisti, i commentatori politici, le star del sistema, i guitti e il pretume culturale scientifico che infesta questo nostro immaginario sempre più coatto. La bieca falsità del sistema televisivo risulta ancora più evidente dalla scomposta reazione della signora Venier all'indomani dello scandalo. Men che mai le è passato per il cervello che far spettacolo di profezie domestiche sia uno schifo ed uno spintone di qualche milione di spettatori verso il baratro. Men che mai le è passato per il cervello che sarebbe ora di scusarsi per la cultura dello scongiuro e del talismano che ha contribuito a diffondere. No, ha semplicemente detto che è ora di smetterla con il fare trasmissioni in diretta. Come a garantirci che fosse stata indifferita, non avremmo visto mai e poi mai quel che abbiamo visto. Carte truccate che si aggiungono a carte truccate. Nel gioco della televisione non c'è un solo giocatore che non bari, dichiaratamente, perché è ormai grande la consapevolezza loro di una sorta di immunità durevole, direttamente proporzionale all'instaurarsi progressivo della connivenza con le loro vittime. Negli ultimi mesi del 1674, il buon Baruch Spinoza, portoghese, filosofo esule, che già aveva i suoi guai perché era ebreo e perché era stato anche scomunicato dai rabbini della sinagoga di Amsterdam, fu afflitto da una fitta corrispondenza con un insopportabile cretino presumibilmente pagato, un certo Ugo Boxel, che voleva fargli ammettere l'esistenza degli spiriti. Fra le tante prove ridicole e fasulle che questi tira in ballo, cita per l'appunto l'episodio della morte di Cesare raccontato da Svetonio. Spinoza gli risponde che veramente ad arretta Svetonio Cesare se la ride di queste sciocchezze, ma con precisione filologica Boxel gli fa notare di rimando che non degli spettri ride Cesare, bensì degli auguri e dei presagi. Poi, non contento per la felicità dei pragmatisti, ci aggiunge l'argomento decisivo: tuttavia, se il giorno della sua morte egli non si fosse preso gioco di Spurinna, non si sarebbe esposto ai colpi dei suoi avversari. È inutile, è tutto inutile, il mondo è loro. If you're looking for trouble, well, Figlia di questa cultura vittoriosa è anche l'ignobilmente aristocratica distinzione fra il divulgativo e il non divulgativo. Ci si riparano dietro, per un lato, i più tenaci cretini culturalscientifici per giustificare le cretinerie che dicono e che scrivono, e per l'altro lato, i furbi importanti per nascondere accuratamente la propria ignoranza. Della parola divulgativo se ne comincia a trovare traccia nella seconda metà del XVI secolo. Il prefisso di era dis, lo stesso di disperdere, e designava per l'appunto lo spandere qualcosa in quel volgo che faceva la parte della fetta di pane su cui il potente allungava ed allargava la sua marmellata. L'ultimo numero delle Scienze inizia con un editoriale del suo direttore Enrico Bellone, in cui comunica alcune cifre relative alle elargizioni del Ministero per i Beni Culturali attualmente in carica alla stampa. Elargizione alla stampa per cui viene riconosciuto un elevato valore culturale. Gioiranno Mara Veniere, le veggenti bulgare e magari anche qualche loro amica che voglia disfarsi del marito, gioiranno nell'apprendere che il periodico Mani di Fata ha ottenuto un contributo pubblico di 1.286 milioni. D'altronde, come ci ha insegnato la psicanalista Marie Bonaparte, il contributo dato dall'uncinetto alla pace sociale è stato davvero ragguardevole. Qualche dubbio forse susciterà il contributo di 4.927 milioni elargito a Cavalli e Corse, pubblicazione fondamentale nell'ambito di quelle razze equine che hanno saputo resistere stoicamente all'uccisione di Giulio Cesare. Nessun dubbio invece susciterà il fatto che alle Scienze non sia stata concessa una lira, perché il fatto è chiaramente giustificato. Il Ministero per i Beni Culturali, infatti, dichiara che la pubblicazione in oggetto, ovviamente, ha un carattere meramente divulgativo.